Il celebre finanziere ebreo statunitense di New York, Stanley Weinstein, un giorno uggioso di un autunno della fine degli anni 70, dice alla sua segretaria Mabel: io domani mattina vado al Moskva perché voglio vedere Lenin al mausoleo, ce l'ho nostalgia. Quando era vivo Lenin era molto amico del mio papa e ce l'ho nostalgia. Se gente telefonerà, tu dirai: signor Weinstein, Unione Sovietica, tornerà qualche giorno, non si sa quando lui decidi. La mattina successiva, dal suo ufficio, scende nella quinta strada, ferma un taxi, è un uomo piuttosto noto, il taxista lo riconosce e dice: oh, signor Weinstein, dove la porto di bello? Porta Airport Kennedy, linea sovietico Aeroflot. Ah, si è organizzato un bel viaggio in Unione Sovietica, è tempo di congressi di partiti. No, ho deciso ieri così, ieri sera all'improvviso. Ma signor Weinstein, non so se lei si rende conto, ma non troverà uno spillo sull'aereo, non troverà un buco. Lascia, non si preoccupi, porti me Aeroflot, Airport Kennedy. Arriva all'aeroporto Kennedy, linea Aeroflot, va al banco dell'Aeroflot e dice all'impiegato: io vuole un posto sul prossimo volo per il Moskva, non troppo avanti, non troppo dietro, lato sinistro di finestrino. No, signore, prego il suo biglietto. Non ce l'ho biglietto, ho deciso ieri sera così. Ma lei sta scherzando, noi siamo in overbooking per i prossimi 6 mesi, ma è un periodo terrificante, mi dispiace. Senza dire niente, il signor Weinstein infina una mano nella tasca interna della giacca, tira fuori $2,000 e li appoggia sul banco. E l'impiegato dell'Aeroflot dice: che combinazione, signor Weinstein, guardi, si è liberato un posto come lo voleva lei, proprio non troppo avanti, non troppo indietro, lato sinistro finestrino, le faccio il biglietto. Compila, lui prende, parte, arriva all'aeroporto di Sheremetyevo a Mosca, sbriga le formalità con la sua valigina in mano, esce, ferma un taxista, sale: porti me prego Hotel Rossia, l'albergo della nomenclatura. Allora dice: Hotel Rossia, dove? Piazza Rossa. E il taxista dice: ah, dice, lei è qui per i congressi dei partiti, si è organizzato un bel viaggio. No, io ho deciso ieri sera, vengo di New York così all'improvviso perché c'è la nostalgia. Ma lei sta scherzando, signore, lei non troverà neanche una stanzuccia, deve andare fuori 300 chilometri da Mosca per trovare qualcosa in questo periodo. Non si preoccupi, mi porti a Hotel Rossia, stia tranquillo. Arriva all'Hotel Rossia, entra nella hall, va direttamente dal capo concierge e dice: io voglio un suite in questo albergo, non troppo alto, non troppo basso, di occidente, perché mi piace tramonto al Moskva. Signore, il suo voucher? Non ce l'ho voucher, ho deciso ieri sera così, nostalgia di venire. Ma lei vuole prendermi in giro? Ma non vede? Guardi, lavoriamo nei sottoscala, abbiamo liberato anche gli uffici per farne camere da letto. Ma non se ne parla neanche. Di nuovo, il signor Weinstein, senza dire niente, mette una mano in tasca, tira fuori 2 banconote da $1,000 e le appoggia sul banco del capo concierge, il quale li guarda e dice: che combinazione, signor Weinstein, mi hanno cancellato una suite proprio come quella che voleva lei. Adesso le faccio il check-in. Fa il check-in, ragazzo, accompagna il signor Weinstein. Lui sale nella sua stanza, si dà una rinfrescata, si cambia d'abito e poi scende subito e dice al capo concierge: io vado a vedere Lenin a mausoleo. E il capo concierge dice: signor Weinstein, non oggi, è un disastro, c'è una fila di 10 chilometri, aspetterà ore e ore in piedi. E non si preoccupi, dice Weinstein, dice: penso io, stia tranquillo. Sale gli scalini che portano alla Piazza Rossa, così costeggia un pochettino San Basilio e si mette vicino alla fila che per visitare il mausoleo di Lenin, proprio da dove si trova. Poi supera tutta la fila fino a raggiungere il picchetto d'onore. I 2 militi col bacco, la stella rossa, la faccia e il martello e il Kalashnikov impettiti. Lui si avvicina a uno dei 2 militi, mette una mano in tasca, prende $2,000, li accartoccia un pochettino e li ficca nel taschino di uno dei 2 militi, il quale sorride e dice: oh, signor Weinstein, che piacere rivederla. Cosa fa questa volta? Lo vede dentro o glielo porto fuori? Stawaj, prokljacie zaglinony, wieś mir голодnych i rabów. кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов. Весь мир насильем мы разрушим до основания. А зачем мы нашли новый мир построим? Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой. Io come un lupo divorerei il burocratismo. Per i mandati non ho alcun rispetto. Vadano con le madri a tutti i diavoli tutte le carte. Ma questo, per il lungo fronte di scompartimenti e cabine, si avanza un cortese funzionario. Porgono i passaporti, io consegno il mio libricino purpureo. Per certi passaporti ha un sorriso alla bocca, per altri un contegno sprezzante. Con rispetto prende il passaporto con il leone inglese a due piazze, mangiandosi con gli occhi il bravo zio. Senza cessare di inchinarsi, prende come prendesse una mancia il passaporto di un americano. Su quello polacco appunta lo sguardo come una capra dinanzi ad un affisso. Su quello polacco spalanca gli occhi. Di dove? Perbacco, e che sono queste innovazioni geografiche? Senza volgere la palla della testa, senza provare sentimento alcuno, né un battito di ciglio, prende i passaporti dei danesi e di diversi altri svedesi. E ad un tratto la sua bocca si contorce come per una scottatura. Infatti il signor funzionario prende tra le mani il mio passaporto dalla pelle rossa, lo prende come una bomba, lo prende come un riccio, lo prende come un rasoio a due tagli, come un serpente a sonagli lungo due metri dalle 20 lingue. Ammicca il facchino pronto a portarvi i bagagli per niente. Il gendarme scruta il funzionario, il gendarme. Con quale voluttà dalla casta gendarmesca io sarei crocefisso e fustigato, perché ho fra le mani, con falce e martello, il passaporto sovietico. Io come un lupo divorerei il burocratismo. Per i mandati non ho alcun rispetto. Vadano con le madri a tutti i diavoli tutte le carte. Ma questo io lo traggo dalle brache larghe, duplicato d'un peso inestimabile. Leggete, invidiate. Io sono cittadino dell'Unione Sovietica. Oh, era cominciata così, eh? La storia era cominciata così, con un entusiasmo pazzesco. Sono le parole di Majakovskij che ce lo dicono. Ma vi rendete conto, la rivoluzione bolscevica? Per la prima volta nella storia un sovvertimento impensabile. I lavoratori, gli operai, i braccianti, gli umili, i contadini, i derelitti, gli sfruttati, i calpestati, le carni da cannone diventavano protagoniste della loro storia. Il proletariato mondiale esultava tripudiante. I potenti tremavano, i ricchi erano in angoscia per il loro gruzzolo. E gli ebrei? Beh, sentimenti contrastanti. C'erano ebrei tradizionalisti, come si chiamano, ortodossi, che magari paventavano se le novità portano nuove persecuzioni. E naturalmente gli ebrei ricchi, come tutti i ricchi, erano angosciati. Ma c'era un gran numero di ebrei che era pazzo dall'entusiasmo, gli uomini tutti uguali finalmente, senza più distinzioni, anche gli ebrei sarebbero stati uomini come tutti gli altri. Ed ecco che ci sono tre amici così entusiasti che vogliono immediatamente iscriversi al Partito Comunista Bolscevico e vedono una sezione del partito, ci si fiondano dentro e c'è lì un usciere che indica una porta dove si svolgono gli esami. Gli amici si chiamano Chaimovic, Abramovic, Rabinovic. Per primo entra Chaimovic, dopo 10 minuti esce raggiante. Sono membro del Partito Comunista Bolscevico. Com'è andata? Dicono gli altri due. Che cosa ti hanno chiesto? Niente, solo cosa facevano mio papà e mamma prima di rivoluzione. E io ho detto che mio papà e mamma avevano una piccola, miserabile botteguccia alimentari, solo per sfamarsi, piccola, piccola, piccola, non come grandi negozi di quella Aleksandrov. Mi hanno preso. E allora anche Abramovic si fionda dentro, tranquillo, esce dopo 10 minuti raggiante. Sono membro del Partito Comunista Bolscevico. E a te cosa hanno chiesto? Come a lui uguale. Cosa facevano papà e mamma prima di rivoluzione? Io ho detto che avevano un piccolo officino meccanico, 2 metri per 3. Poverini, piccolo, piccolo. Mi hanno preso. Allora Rabinovic proprio entra con una falcata, felice. Dopo 10 minuti esce piagnucolando. Non mi hanno preso, mi hanno cacciato come un cane rognoso. Ma perché? Cosa ti hanno chiesto? Come a voi? Cosa facevano mio papà e mamma prima di rivoluzione? E tu? E io ho detto che mio papà e mamma prima di rivoluzione ce l'avevano un piccolo bordello. Ma un bordellino, non un grande bordello come l'Unione Sovietica. Ora, l'entusiasmo contagiava anche oltre oceano, perfino negli Stati Uniti c'erano questi ebrei comunisti sfegatati alla notizia, impazziti. Due di questi fratelli vanno dai genitori: noi andiamo a costruire socialismo in Unione Sovietica dove i ebrei sono uguali di tutti gli altri, basta con questo paese schifoso, capitalista, razzista e antisemita. E la mamma preoccupata: sento venire strane notizie di quello posto. Come fate una cosa per la mamma? Andate, seguite vostro destino. Però, dopo un mese che siete lì, scrivete una lettera per noi. Se scrivete le grandi meraviglie che vedrete, ma se il cose non sono così proprio belle belle, invece che con inchiostro nero, scrivete con inchiostro verde. Dopo un mese arriva una lettera tripudiante. Questo Gan Eden, paradiso terrestre di esseri umani e soprattutto di ebrei. Finalmente siamo come tutti gli altri. E che cosa non c'è di bello? Scuole, spitali, gratis, tram, quello. E poi abbondanza, grandissima abbondanza. Un meraviglia. Abbiamo qui avuto solo un piccolissimo problema. Proprio non si trova inchiostro verde. Ora, l'uomo che aveva compiuto il miracolo, anche se non era stato solo lui, era per tutti uno solo: il Napoleone degli operai, Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin. Non si può capire che cosa fosse quest'uomo per i lavoratori del mondo. Intanto il genio della rivoluzione, così l'ha definito il grande storico di Cambridge Carr, aveva intuito che si poteva fare una rivoluzione, l'aveva inventata lui, quella rivoluzione con le tesi di aprile, quando tutto il partito era contro. E poi l'aveva fatta, l'aveva vinta. Ed era un mito, un mito. Pensate che nel 1942 ancora la rivista statunitense Life scriveva che Lenin era il più grande uomo del Novecento. E l'amore che c'era per quest'uomo, la passione, e che cosa non si faceva per lui? Si scrivevano saggi, libri, poemi, libri fotografici, documentari, film, e naturalmente anche l'arte si era mobilitata, dico le arti figurative. Ed ecco che c'è una collettiva su Lenin proprio a Mosca, importantissima, e viene a visitarla il commissario all'arte del partito, e allora passa così in rassegna i quadri, a un certo punto si ferma davanti al quadro del pittore Rabinovic, che si intitola Lenin in Polonia. Il dipinto ritrae un letto con le lenzuola disfatte, e dalle lenzuola escono in una prospettiva un po' alla Mantegna due coppie di piedi. Due sono piedoni grandi, callosi, e due delicatini, morbidini. Per tirarsela un po', il commissario all'arte dice: cittadino Rabinovic, Vedo che avete scelto una via simbolista. Spiegateci questo vostro dipinto. Subito, signor commissario. Allora, piedoni quelli grandi sono piedoni nudi di Felix Dzerzhinsky, compagno fondatore di servizio segreto bolscevico Ceca. Piedini morbidini delicatini sono quelli piedini di signora compagna Krupskaya, moglie di compagno Lenin. Ah, ecco, ecco, molto interessante. E dimmi, Rabinovich, e Lenin? Lenin è in Polonia? Ora, il genio della rivoluzione non rimase a lungo col suo capolavoro. Lenin era un uomo gracile, veramente macilento, aveva problemi ai reni. Ma già nel 1922 ebbe il primo colpo apoplettico e ne ebbe una successione. Già nel 22 si allontanò dalla vita attiva e ai primi gennaio, mi sembra, del 24 già lasciava la sua rivoluzione e i suoi compagni di partito. Il cordoglio, la disperazione per la morte di questo gigante, di questo uomo immenso, fu pazzesco. Immaginatevi i funerali, Stalin lesse il famoso giuramento del bolscevico, ti giuriamo, compagno Lenin, e fu un corteo oceanico e poi veniva replicato in tutte le piazze di tutti i paesi del mondo con il proletariato in lutto, ma a Mosca. Quel lungo corteo, ogni 10-15 metri si ripeteva, in particolare uno striscione fra gli altri. Lenin è morto, ma la sua opera vive. E il vecchio Rabinovich, quando passava sotto questo striscione, alzava gli occhi, scoppiava in un pianto dirotto come se fosse lui la vedova di Lenin. Allora uno del servizio d'ordine lo nota e gli dice: cittadino Rabinovich, contenetevi, che cosa sono questi pianti? Che cos'è questa scena isterica? Avanti, un po' di dignità. E allora: no, voi non capite niente, io lo volevo bene a Lenin, più di voi, più di tutta questa piazza, di tutte le piazze del mondo, io lo volevo bene, era così buono. E quando vedo questo io mi dispero, Lenin è morto, ma la sua opera vive. Era meglio che lui viveva e la sua opera moriva. Ora, qual era stata la grande opera di Lenin? La grande opera di Lenin era aver cambiato realmente ogni prospettiva storica in quei 10 giorni che sconvolsero il mondo. E i filosofi razionalisti con il loro pensiero che si spingeva al cinismo come Hobbes ci avevano lasciato dei motti terribili, quello che abbiamo studiato nelle scuole, Homo homini lupus, terribile, l'uomo per il suo simile è una belva, un lupo feroce. Dopo la rivoluzione bolscevica tutto sarebbe cambiato, sarebbe stato così, homo homini compagno lupus. Ora vedete, la rivoluzione era cominciata come una festa, questo pochi lo sanno. Le prime settimane della rivoluzione furono una festa, la stessa presa del Palazzo d'Inverno, il momento insurrezionale, probabilmente non causò neanche un morto. L'artefice dell'insurrezione fu l'altro genio della rivoluzione, Trotsky, Lev Davidovich Bronstein, ha detto Trotsky, fu lui che prese il Palazzo d'Inverno. In quei momenti Lenin non si vedeva, era stato per alcuni giorni travestito da operaio con una parrucca in testa e il cappellino senza il pizzo, ed era arrivato allo Smolny, la centrale operativa bolscevica, il pomeriggio del giorno dell'insurrezione che sarebbe avvenuta la sera. E si era imboscato dietro una catasta di mobili. Nessuno si era accorto dell'arrivo di Lenin. Ebbene, a mezzanotte arrivò allo Smolny il marinaio Dubenko, che gridò: la bandiera rossa sventola sul palazzo d'inverno. In quel momento Lenin uscì dalla catasta dei mobili, si tolse il basco e la parrucca e pronunciò una frase in tedesco: es schwindelt, mi gira la testa. Dopodiché lui e Trotsky si sedettero a una scrivania e cominciarono a sbrigare le questioni correnti. Non stapparono neanche una bottiglia loro due. Però la rivoluzione cominciò come una festa, c'era una grande euforia, anche quelli che non erano bolscevichi sentivano di partecipare di un'era nuova. Durò poco la festa, perché partì la controrivoluzione. Questo era abbastanza comprensibile. Chi perde il potere cerca di riprenderselo, anche se lo zar era uno dei peggiori tagliagole della storia, però insomma, si capisce. Quello che invece fu incomprensibile fu il comportamento di 13 paesi dei cosiddetti imperialisti, paesi potenti, paesi alcuni sedicenti democratici, che senza dichiarare guerra all'Unione Sovietica le fecero intorno un cordone sanitario appoggiando le forze reazionarie per strangolare nella culla quella rivoluzione. Una delle più grandi porcherie del Novecento. Colpa della rivoluzione? Avere portato gli umili al potere. Solo questa allora era la colpa della rivoluzione. Naturalmente fra questi paesi, oltre agli Stati Uniti con 13.000 uomini, la Francia, il Giappone e via dicendo, c'era la grande Inghilterra. Gli alleati erano forse in guerra con l'Unione Sovietica? Certo che no. Tuttavia sparavano contro qualsiasi sovietico incontrassero per strada. Erano gli invasori del suolo russo, armavano i nemici del governo sovietico. Bloccavano i suoi porti e affondavano le sue navi da battaglia. Con tutte le forze desideravano la sua caduta e complottavano al fine di determinarla. Ma chiamarla guerra? Neanche per sogno. Interferenza? Che vergogna! Il modo in cui i russi avrebbero risolto le loro questioni interne, ripetevano, era per loro assolutamente indifferenti. Erano imparziali. Bang! Queste sono le parole di Sir Winston Churchill, che allora era ministro della guerra di Sua Maestà Britannica. Ra, dva, tri, stiri. Вихри враждение веют над нами, темные силы нас словно гнетут. В бой раковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы бесвестные ждут. Но мы подъем гордо и смело, нам я борьбой за рабочее дело. Нам я великой борьбой всех народов, за лучший мир, за святую свободу. На бой кровавый, святой крови, марш, марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий. La guerra civile fra russi e bianchi fu un autentico disastro, uno spavento, si raggiunsero vertici di orrore e di crudeltà inenarrabili, le famiglie si lacerarono. Il giornale Historia, giornale russo odierno, dichiara che il costo di quella guerra civile fu di 12 milioni e 500 mila morti. Una cosa inaudita, un orrore inaudito. Lo sforzo di quella canagliata dei paesi imperialisti fu vano, perché il genio militare strategico della rivoluzione, Lev Davidovich Bronstein Trotsky, capo fondatore dell'Armata Rossa, correva col suo treno blindato con le bandiere rosse incrociate e i simboli della rivoluzione da un fronte all'altro e sbaragliò tutti i nemici della rivoluzione. Dove Trotsky avesse preso questo talento strategico, è difficile capirlo, perché era nipote di un rabbino ortodosso, ma che se questi sono i misteri. Ebbene, voi potete capire che in quei tempi c'erano cose davvero orrende. La guerra tira fuori il peggio degli uomini, davvero il peggio. Verso la fine della guerra civile, siamo alla fine del 21, il Partito Comunista Bolscevico annuncia in una piccola cittadina della Bielorussia che verranno distribuite arance gratuitamente a tutta la popolazione. Vi potete immaginare arance con la pellagra, con lo scorbuto, con tutte le malattie? La Russia dalle infinite sofferenze in fila, dalle 4 di mattina, nell'alba gelida di quelle terre. Fermi, aspettano pazienti. C'è un gabbiotto dove ci sta il compagno burocrate preposto alla distribuzione. Dopo un'ora si alza la saracinesca e il compagno con una faccia stinta annuncia: cittadini e compagni, mi dispiace, le arance sono di meno di quelle che avevamo previsto, quindi non verranno distribuite arance agli ebrei. Sulla carta gli ebrei erano uguali agli altri, ma i sentimenti popolari. Un gruppo di vecchi ebrei ortodossi con le barbe striate di brina e di ghiaccioli si allontana ciondolando e mormorando antiche preghiere mosaiche. Sono abituati alle discriminazioni. Rimangono i cittadini pravoslavni, gli ortodossi. Un'altra ora devastante di quel gelo. Si rialza la saracinesca, lo stesso miserabile compagno burocrate annuncia: mi dispiace, compagni e cittadini, le arance sono ancora di meno di quelle che avevo detto al primo annuncio, verranno distribuite solo ai membri del partito. I semplici cittadini, non membri del partito, si allontanano, biascicando fra i denti bestemmie irriferibili all'indirizzo della madre del compagno del gabbiotto. Rimangono i membri del partito, disciplinati, impettiti in quel freddo che si è fatto come il morso di un cane rabbioso con i denti di ghiaccio, ma sopportano. Un'altra ora si rialza la saracinesca. Oramai la faccia del burocrate è diventata una marmellata e annuncia: compagni, voi siete gente del partito, lo potete capire. Le arance sono davvero poche, poche. Le distribuiremo solo ai veterani. Coloro che sono iscritti recenti si allontanano, biascicando a voce un po' più bassa le stesse bestemmie all'indirizzo della madre del compagno del gabbiotto degli altri. Evidentemente quella donna ha origini dubbie. Ebbene, rimangono i veterani del partito, duri, gente tosta. Un'altra ora infernale che li fa diventare violastri oramai. Si rialza la saracinesca. E la faccia del compagno del gabbiotto sembra una maschera neutra, infame, e dice: voi siete veterani del partito, lo dovete capire, le arance sono pochissime, verranno distribuite solo agli eroi pluridecorati e mutilati. Coloro che non portano questi segni sul corpo e che non hanno il peso delle medaglie si allontanano in silenzio. Niente bestemmie fuori, dentro le stesse degli altri. Rimane questo gruppo sparuto di gente, chi senza un occhio, chi con cicatrici che solcano faccia, corpi, chi senza una gamba, chi senza le due braccia, con una disciplina esemplare, sopportano come blocchi di ghiaccio in forma umana. Dopo un'ora si rialza di nuovo la saracinesca e quel compagno miserabile, che non ha più una vera faccia, fa loro cenno di avvicinarsi. Con una pena terribile, questi eroi superdecorati si avvicinano, dolgono loro anche le giunture degli arti che non hanno più. E quando arrivano vicino, il compagno burocrate dice: voi siete gente di provata fede, a voi lo posso dire, arance non ce ne sono proprio, compagno. Si allontanano questi mutilati eroici con una disciplina che non riusciamo più neanche a pensare, in silenzio. Solo uno bisbiglia all'orecchio del vicino: hai visto Vasilij Nikolaevich, gli ebrei? Sempre i più fortunati. In quel terribile contesto di guerra civile, di dilacerazioni, naturalmente ci sono anche gli aggiottatori, i gozzovigliatori. Anche fra i rossi c'è un colonnello, un grassone. Gli altri fanno la fame, mangiano bucce di patate. Lui più vede gli altri affamati, più ha voglia di gozzovigliare. E allora traffica per avere caviale, vodka, fa festini. Ma a questi porci gli vengono delle malattie perché sono ingordi. E a lui viene una stranissima sindrome, ma non può comunicarla. Allora bisbiglia qualcuno: ma c'è qualcuno che sa di medicina fra noi dell'armata a cavallo? E gli indicano l'ebreo Rabinovich, cavalleggere semplice, dicono essere un po' medicone, e lui va da Rabinovich, dice: Rabinovich, aiutatemi, voi dicono che sapete un po' di medicina, dite colonnello, eccomi, io ho una sindrome terribile, quando mangio caviale nero e vado poi a evacuare, io le feci, le faccio caviale nero, come se non fosse successo niente né nello stomaco né nell'intestino, uguale a quello che ho mangiato. E scusatemi la rudezza, quando mangio caviale rosso io cago letteralmente caviale rosso. È grave, ci vuole uno specialista. No, colonnello, per questo vi do io un rimedio. Caro colonnello, fate come noi semplici cittadini sovietici, mangiate merda, cagherete stronzi. Ed ecco che il cavalleggero rosso semplice Rabinovich si prepara all'attacco. E quando si va all'attacco, come ogni volta, bisogna lasciare un piccolo testamento. E lui, appoggiando un pezzo di carton sul ginocchio e con un mozzicone di matita, scrive il suo testamento. Cari compagni, se io in battaglia cado nel combattimento e muoio, contatemi fra i comunisti. Se no, no. Мне кажется порою, что солдаты кровавых не прищечивали, не в землю нашу полегли когда-то, а превратилась в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Земле из поднебес по птичьи окликай всех вас, кого оставил на земле. Stazione di Zima, data. Mi alzo prima dell'alba, che delizia. Apri i bracci lì. Con il camion mi avventuro tra i campi di grano. Penetro nella taiga e osservo l'estate. Mi stupisco per come è terrena la terra. I mirtilli rossi ardono in piedi nell'erba e le bacche della rosa canina porporeggiano nella fulva peluria. Tutto sembra dire: sii più saggio, e nello stesso tempo non sottilizzare troppo. Stanco dell'assurda vanità delle cose, mi lascio andare alla quiete, all'ordine e alla sacra e libera solennità. Giungo ad una radura silenziosa dove con la stella biancheggia un obelisco. Fra i lamponi e le betulle voi riposate, tombe di partigiani, strana magia del sepolcro. Pur se ti accosti a quelle lastre, curvo, sotto un gran peso, di colpo ti senti triste e lieve. Leggo i nomi. Nastia Klifstova, Piotr Bielomielsny, Maxim Kuzmitsov. E soprattutto un'iscrizione eroica. Sono morti da valorosi per il marxismo. Rifletto su questa iscrizione, tracciata a fatica nel lontano 19 da una mano incerta che trovò in questo il senso della vita. Naturalmente non avevano letto Marx e credevano in Dio, ma andarono a combattere e sconfissero i borghesi. Si comprese allora che erano marxisti caduti per un mondo nuovo, giovane. Ora riposano contadini siberiani con la croce sul petto, ma non sotto la croce, sotto la rossa stella proletaria. E io con gli stivali nella brina sono diventato in quest'ora più vecchio, avendo dato tutti gli esami di marxismo, tuttavia non tutti, è sicuro. Addio tombe di partigiani, addio. Voi mi avete aiutato come solo potevate. Io devo ancora cercare, tormentarmi. Il mondo aspetta me, il mio coraggio, la mia lotta. Il mondo, con il canto degli uccelli, con il mormorio dei rami bagnati. Il mondo, la sua solenne immortalità. Il mondo dove i vivi pensano ai morti e dove i morti aiutano i vivi. Per Rio de Janeiro, prendi in sempre il mio lugar. Siamo come cuce gitti e tutti là, prevere solo normali chiudiei. Nua gronna e ieta svitila. Saccia geniu, bella e friei, da uke on. Privi paruzza e zaskacchom si da skaccio. Onnamu simli prapuzzu, поставил новый мажечок. Всем, кому уже жить не светило, превращал он нормальных людей. Ну, огромное это светило. К сожалению, пила Юрей. Chirurga da Жмейра, спеціалістом помазав. На сісті фрія Джишаніра, принився були мілюзна. Всім, кому уже жить не світіла, превращало в нормальних людей. Ну, огромная дета світіла. К сожалению, обила еврей. Наукой он привык бороться и заскочен, всегда скачен. Он одному земле проходит, поставил новый маджачок. Всем, кому уже жить не светило, превращал он нормальных людей. Ну, огромное это светило, к сожалению, была еврей. Questa canzone grottesca dice di questo chirurgo geniale, neurochirurgo che sostituiva cervelli, dava vita a gente che era moribonda, ma purtroppo era solo ebreo. Ora, dopo che gli ebrei erano stati emancipati dalla rivoluzione, e teniamo conto che era successa una cosa incredibile nella prima Costituzione del 18, mentre tutto il mondo conosceva in Occidente soprattutto, ma non solo, anche, lo ripeto, oltreoceano, si conosceva una recrudescenza terribile dell'antisemitismo. Pensiamo che da solo 10 anni, nemmeno 8 anni, era finita la furia del caso Dreyfus in Francia, la France républicaine, la patria dei diritti dell'uomo. Che cosa aveva fatto? Perché un solo ebreo, il capitano Dreyfus, era stato ingiustamente accusato di essere un traditore, aveva scatenato una delle più feroci campagne antisemite che si fossero mai viste, con un parossismo fino al delirio antisemita. Ebbene, in Austria e poi in Germania, partiti basavano la loro linea politica soprattutto sull'antisemitismo. Antisemitismo feroce c'era anche negli Stati Uniti, dove Henry Ford era il capo degli antisemiti. E invece in Unione Sovietica la Costituzione dichiarava che l'antisemitismo era crimine contro lo Stato, crimine penale. Incredibile! Immaginatevi l'orgoglio degli ebrei se si chiedeva al compagno Rabinovich: ma compagno Rabinovich, voi siete membro del partito? Lui dice: quale membro? Io sono suo cervello. Però c'erano le contraddizioni. Una cosa erano le leggi, una cosa erano i sentimenti profondi di una parte della popolazione, una parte che aveva ancora latenze molto forti. E naturalmente Rabinovich è uno che aveva le antenne, gli ebrei abituati ad avere le antenne di tutte le contraddizioni che potevano colpirli. Ed ecco che Rabinovich un giorno si fionda dentro un dispensario medico della rivoluzione, insomma ci sono le cose pubbliche, e c'è il giovane medico della mutua bolscevica, e lui gli dice: compagno, preparami una visita specialistica, io devo vedere un otooculista. E il giovane medico dice: cittadino, qui abbiamo otorinolaringoiatri o oculisti, non conosciamo questa specialità di cui parla. No, niente, io voglio vedere una visita specialistica di un otooculista. Cittadino, come ve lo devo dire, le specialità sono otorino, laringo, iatria oppure oculistica, scegliete. No, io devo vedere un otooculista. Allora spazientito il giovane medico: ma cittadino, si può sapere che diavolo di malattia avete voi? Te lo spiego subito, compagno, sento una cosa, ne vedo un'altra. Naturalmente contribuiva a mantenere, diciamo, dei sentimenti perlomeno di giudeofobia, una certa tipica petulanza ebraica. Siamo in un Trump, dopo la avvenuta la rivoluzione, il nuovo Trump bolscevico con le insegne falce martello, le bandiere rosse, il tranviere fiero annuncia i nomi nuovi delle fermate e dice: cittadini e compagni, la prossima fermata è Piazza della Rivoluzione d'Ottobre. E il vecchio Rabinovich dal fondo del tram: ex piazza Principe Alessandro II. Il tranviere sospira, si morde la lingua e va avanti. Fermata successiva. Ed ecco ora, cittadini e compagni, che stiamo per arrivare in corso Martiri della Rivoluzione del 1905. E il vecchio Rabinovich del fondo, ex corso Principe Potemkin. Il tranviere sbuffa, si morde ancora la lingua, non vuole reagire, va avanti, fermata successiva. E adesso arriveremo, cittadini e compagni, in largo bolscevismo. E il vecchio Rabinovich, sempre dal fondo, ex largo Yevgeny Onegin. A questo punto il tranviere si gira e dice: e adesso basta, compagno ebreo, ex pezzo di merda giudea. Ora vedete, il periodo è strano dopo la morte di Lenin. Le cose sono interlocutorie, c'è una direzione collegiale, non si capisce ancora bene. Via, insomma, per farla breve, si comincia a sentire sempre più frequentemente un nome: Josip Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin. Nelle manifestazioni di quegli anni si sente parlare di lui un po' più che degli altri, si vedono naturalmente striscioni: viva il compagno Stalin, viva il primo segretario Stalin, eccetera eccetera. In una di queste manifestazioni c'è anche il vetustissimo Rabinovich, 95 anni, con il suo cartellino che sfila con scritto: ringrazio compagno Stalin per il mio infanzia felice. Uno del servizio d'ordine lo vede e dice: cosa state facendo? Siete impazzito forse? Cittadino, che cos'è questo cartello? Tiratelo giù subito! Quando voi eravate bambino, il compagno Stalin non era ancora nato. E per questo lo ringrazio per la mia infanzia felice. Per cosa? Sterrò, passo Dio! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Катюша на высокий берег, на крутой. Подела на берег Катюша на высокий берег, на крутой. Оп! А ну давай, пошел! Опа! Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. А ну, давай сыграем! Ed ecco che irrompe sulla scena della storia mondiale, non solo sovietica, un uomo mito, un titano, un gigante terribile, Josip Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin. Ebbene, quest'uomo rappresenterà qualcosa di unico nella storia dell'umanità. Stalin si presenta immediatamente come l'erede diretto di Lenin. È lui che vuole che Lenin sia imbalsamato. È una sua richiesta specifica. Tutti quasi sono contrari. Non parliamo della moglie, la Krupskaya. Nessun Majakovskij usa parole di fuoco contro l'imbalsamazione di Lenin. Ma lui ne ha bisogno. È una strategia precisa. Ci vuole un dio morto se tu vuoi essere papa. Ci vuole una religione. Se Lenin fosse stato seppellito, come tutti i normali uomini, sarebbe divenuto pasto per vermi e i vermi avrebbero elaborato insieme al suo corpo il suo pensiero, diventando una bambola di cera eterna. Così si fonda una religione. Ora, Stalin insiste di essere il più fedele rappresentante dello spirito di Lenin. E anche oggi molti storici, frettolosamente revisionisti, dicono Lenin, Stalin, la stessa cosa. Uno uguale, uno conseguenza dell'altro. Davvero? Davvero è così? Sentiamolo un pochino, se questi due uomini erano così uguali, dalle loro parole. Queste sono le parole che Stalin disse a proposito di Lenin quando lo conobbe dal vivo. Ne aveva prima sentito parlare, aveva letto i suoi scritti, conosceva il mito, ma non l'aveva mai visto. La prima volta fu nel 1905. Queste sono le sue parole, della sua impressione. Mi attendevo di vedere l'aquila del nostro partito, il grand'uomo, grande non solo politicamente, ma anche, se vogliamo, fisicamente. Perché Lenin si presentava alla mia immaginazione come un gigante di bell'aspetto, dall'aria imponente. Quale fu invece la mia delusione quando vidi il più comune degli uomini, di statura inferiore alla media, che non si distingueva in nulla, assolutamente in nulla, dai semplici mortali. Si ritiene di solito che un grand'uomo debba giungere in ritardo alle riunioni affinché gli altri lo attendano col cuore in sospeso e ne annuncino l'apparizione. Zitti, eccolo che viene, è lui. Questo rito non mi pareva superfluo, perché impone, ispira rispetto. Quale fu la mia delusione quando seppi che Lenin era già arrivato alla riunione prima dei delegati e che, appartato in un angolo, parlava con la più grande semplicità di cose comuni in un crocchio dei più comuni delegati alla conferenza. Non vi nascondo che questo mi sembrò allora, in un certo qual modo, una trasgressione di talune regole necessarie. E ora sentiamo invece cosa finì Lenin alla fine della sua vita di pensare riguardo a Stalin. È una postilla al suo testamento. Stalin è troppo grossolano, e questo difetto, del tutto tollerabile nell'ambiente dei rapporti tra noi comunisti, diventa intollerabile nella funzione di un segretario generale. Perciò propongo ai compagni di pensare alla maniera di togliere Stalin da questo incarico e di designare a questo posto un altro uomo che, a parte tutti gli altri aspetti, si distingua dal compagno Stalin solo per una migliore qualità. Quella cioè di essere più tollerante, più leale, più cortese e più riguardoso verso i compagni. Io non riesco a immaginare linguaggi più diversi di questi. I due uomini hanno una natura e un carattere che apparirebbe opposto, al di là delle responsabilità politiche, questo. Certo, due titani, ciascuno a suo modo. Ora, è possibile pensare che in due giganti di questo tipo, rivoluzionari, dediti alla rivoluzione professionale, ci fosse un sentimento come la dolcezza? C'era. Vediamo per Lenin. Ora, Lenin era molto ambito presso i circoli dei lavoratori, tutti lo volevano, lo amavano, davvero lo amavano, come un fratello, come un padre. E lui ogni tanto, appena poteva, il lavoro glielo consentiva, andava in qualche circolo operaio. Una volta arrivò in uno di questi circoli, dove in questo circolo i lavoratori avevano un'orchestrina. Intonarono subito una bellissima romanza nostalgica per lui. Lui ascoltò poco, poco, e poi li fermò e disse: no, compagni, vi prego, no, basta con questa musica. Io non posso ascoltarla, mi rende troppo dolce. Io divento troppo buono, non riesco più ad andare avanti. Vediamo Stalin. Durante un periodo di vacanza sul Mar Nero, Stalin disse a Kamenev e a Dzerzhinsky le seguenti parole: scegliere la propria vittima, preparare nei dettagli i propri piani, soddisfare l'implacabile sete di vendetta e poi andare a letto. Non esiste niente di più dolce al mondo. Ti petto, eh? Rabinovich aveva intuito la differenza fra stalinismo e leninismo grazie a un esame sommario delle calzature. Diceva, si capisce la differenza perché Lenin portava sempre scarpe basse, Stalin sempre portava stivali. Perché? Perché ai tempi del Lenin eravamo nel merda solo fino alle caviglie. Ora, Stalin era un uomo totalmente anaffettivo, per sua stessa missione. Quando la seconda moglie morì, lui disse queste parole al funerale, che con quella donna scendevano nella tomba anche i suoi ultimi sentimenti nei confronti degli esseri umani. Quando il suo segretario Poskrebyshev arrivava da lui per dirgli: guarda, il tale funzionario ci crea dei problemi, i tali compagni della tale sezione sono ribelli, creano un sacco di guai, Stalin era solito usare questa frase: «Niet c'è la vieca, niet problem». Se non c'è l'uomo, non ci sono neanche i problemi. E si comportava di conseguenza. Ora, anche un uomo così, tuttavia, aveva una mamma. Tutti gli uomini hanno delle mamme. Anche Stalin. La mamma di Stalin aveva pregato per la sua vita, era un bambino gracile, lei aveva perso altri figli, aveva pregato la Madonna di salvarle quel figlio e la Madonna l'aveva esaudita, le aveva salvato quel figlio e lei era talmente devota e grata che lo voleva dedicare alla carriera ecclesiastica perché fosse un servitore di Dio. La madre di Stalin vide Stalin una volta sola quando lui era diventato il grande Stalin. Al Cremlino andò a fargli visita, aspettò per ore perché lui era in una riunione. Quando uscì da quella riunione per andare in un'altra riunione, si incontrarono nel corridoio. La madre gli andò incontro e lo chiamò con il soprannome che lui aveva da bimbo. Stalin si chiamava Josip, in italiano Giuseppe. La mamma lo chiamava Soso, in italiano Peppino. E gli disse: Peppino, che cosa è diventato di te? E lui disse: mamma, ti ricordi lo zar? E la madre disse: vuoi che non mi ricordi lo zar? Certo. Ecco mamma, io sono diventato una specie di zar. La madre lo guardò negli occhi malinconicamente e gli disse: peccato, Soso, era meglio se facevi il prete. Ora, Stalin, con una geniale, astutissima e luciferina manovra, prese il potere con grande abilità. Intanto, visto che circolava la voce di Lenin che proponeva che lui fosse dimissionato da segretario generale, lui rassegnò per ben due volte le dimissioni e due volte furono respinte. E chi se la pigliava la patata bollente del partito? Solo un prodigioso organizzatore burocratico come Stalin, perché lo era. Poi aveva il grande nemico, il grande avversario, l'uomo di più immenso prestigio dopo Lenin, Trotsky, Lev Davidovich Bronstein. Doveva prima demolirlo e liquidarlo. Astutamente si alleò con altri due membri del comitato ristretto di Lenin, Zinoviev Kamenev, fece una troica contro Trotsky, cominciò a demolire il trotskismo, a denunciarlo come deviazionismo. I due allocchi di Kamenev e Zinoviev ci stettero perché erano invidiosi della fama di Trotsky. Quando si resero conto della fesseria che avevano fatto, abbandonarono Stalin e si unirono a Trotsky per formare l'opposizione di sinistra, troppo tardi. Stalin aveva già in mano tutto il partito, che significava cominciare ad avere in mano lo Stato. Cosa fece Stalin a questo punto? Esiliò Trotsky ad Alma-Ata e poi lo costrinse ad andare all'estero. Siamo nel 28. Cosa fece poi? Demolì l'ultima opera di Lenin. Lenin, dopo la guerra civile e il comunismo di guerra che aveva causato naturalmente ristrettezze, sofferenze inaudite, poi la gente aveva sofferto per la guerra, le carestie, le epidemie, Lenin capì che bisognava ridare ossigeno, bisognava ammorbidire, lanciò la NEP, Nova Economическая Politica, secondo alcuni sopravvalutata, secondo altri una grandissima idea. Cosa voleva dire? Lenin fece reintegrare elementi di economia borghese all'interno dell'economia sovietica, quindi elementi di economia di mercato, richiamò in servizio industriali, perché si mettessero al servizio della rivoluzione le loro esperienze e anche alti dirigenti, fece partecipare gli operai nelle fabbriche, la terra, i contadini, tutta una serie di cose per creare dinamismo. La società sovietica cominciò a respirare, fu uno dei periodi più fertili per la cultura di quel paese, forse per la storia della cultura mondiale. Ricordiamo i grandi poeti, il cinema, eccetera, eccetera, eccetera, le grafiche. Ebbene, Stalin, come prese il potere, liquidò immediatamente questa cosa e si preparò alla sua avanzata verso quello che lui chiamava il socialismo, con due manovre simultanee: collettivizzazione forzata, industrializzazione a tappe forzate. La collettivizzazione forzata fu una catastrofe. In cosa consisteva? Nell'organizzare tutta la produzione agricola dentro specie di fabbriche agrarie, cioè i kolkhoz e i savkhoz, grandi immense fattorie collettive o cooperative o statali, e mettere dentro a forza tutti i contadini. Naturalmente i contadini indipendenti si ribellarono a questo. Stalin allora cominciò contro quei contadini una lotta spietata senza quartiere. Li chiamò kulaki, questo era il nome. Contadini ricchi, si diceva, bastava avere un mulino per essere un contadino ricco. Prima li demolì con la propaganda, dipingendoli come esseri infami, sottouomini, parassiti, colmi di un pus ideologico. E dopodiché cominciò con le deportazioni, le fucilazioni di massa dei kulaki. Ebbene, anche i kulaki reagirono, naturalmente, ammazzarono commissari del popolo, distrussero capi di bestiame, fu un periodo terribile. Ma Stalin, con una spietatezza, li liquidò, parliamo di centinaia di migliaia di persone, forse di milioni di questi kulaki. E non contento di aver liquidato i kulaki, attaccò anche i podkulacnik, che erano contadini poveri, solo che si erano mostrati tiepidi nella lotta contro i kulaki e nel sostegno alla collettivizzazione forzata. Questo processo fu un disastro per l'agricoltura sovietica. L'agricoltura rimarrà il tallone di Achille dell'Unione Sovietica, sempre, e sarà probabilmente la vera causa del suo crollo. E non bastasse questo, Stalin farà nominare a capo della genetica, delle ricerche genetiche, un certo Lysenko, un pazzo furioso che con le sue teorie marxiste-leniniste distruggerà la genetica sovietica, e dire che i sovietici avevano allora il più grande genetista vivente fra i loro, Nikolai Vavilov, che finì in gulag e morì. Ebbene, poi passò all'industrializzazione a tappe forzate. Fu un'operazione titanica e terribile nello stesso modo. Naturalmente si crearono delle strozzature fra le vecchie infrastrutture che non reggevano il titanismo che voleva Stalin e opere faraoniche immense. Ma per Stalin non c'erano errori, c'erano solo sabotaggi. Se qualcosa non andava, bisognava trovare i colpevoli e fucilarli. Ora cominciò il sistema, sia con la collettivizzazione forzata che con l'industrializzazione forzata, delle deportazioni di massa nei gulag, questo per creare lavoro schiavistico, ed ebbe centinaia di milioni di lavoratori a costo zero che lavoravano un numero immenso di ore, e tutto questo veniva glorificato come redenzione in nome del socialismo. Questi costruirono canalizzazioni, dighe immense, opere pazzesche, e anche la costruzione causò la morte di centinaia di migliaia di persone. Però l'industrializzazione a tappe forzate, con questi costi umani pazzeschi e strozzature e discrasie, fu ciò non di meno un successo dello stalinismo. Le Russie feudali, che erano un gigante sopito e depresso, si sollevarono dalla terra come un essere immenso. Comparivano fabbriche grandi come la Fiat dal nulla nelle steppe. Una cosa inenarrabile quello che fu fatto con sacrifici e con anche uno spirito di propaganda che non ha riscontri uguali. E in meno di due piani quinquennali, un piano quinquennale e mezzo, le Russie feudali erano diventate l'Unione Sovietica seconda potenza industriale del mondo, pur con tutti i problemi. E questo fu un successo, perché proprio in quegli anni il capitalismo sembrava affondare definitivamente. C'era stata la crisi tedesca, vi ricordate quella dei milioni di marchi accarrettate per comprare una mela? E poi la crisi negli Stati Uniti, quella del 29, che aveva colpito tutto il mondo. Negli Stati Uniti milioni e milioni di disoccupati, carestie inenarrabili, la Dust Bowl, le migrazioni bibliche. In quegli anni, per alcuni anni, il capitalismo sembrava finito. Stalin si permise anche il lusso di promulgare nel 1936 una costituzione nuova, che dichiarò essere la costituzione più democratica, più libera di tutta la storia di ogni paese del mondo. Ed era assolutamente vero, solo che non fu applicata neanche per 15 secondi. Ebbene, Stalin si muoveva con un titanismo tale da fare sembrare che lui volesse abolire il gap, diciamo lo iato necessario che c'era fra il socialismo e il comunismo. Ma non è possibile in un paese slavo, soprattutto le grandi Russie, passare dal socialismo al comunismo senza una fase intermedia. Qual è questa fase intermedia? L'alcolismo. Inchiesta sul rapporto fra il bere e il lavoro in una fabbrica metallurgica sovietica. Arriva l'intervistatore del partito bolscevico, un gigantesco operaio, domanda: compagno, tu puoi bere tracannando il bicchierone di vodka da 200 tutto d'un fiato e lavorare? Certo, dice l'operaio, posso. E puoi bere la mezza bottiglietta da 375 tracannandola d'un fiato e lavorare? Certo, compagno, per chi mi prendi, posso. E puoi bere la bottiglia da 750 grammi tracannandola d'un fiato, vodka, e lavorare? Avanti, compagno, guardami, certo che posso. E adesso stai molto attento, compagno. Tu puoi bere il bottiglione da 1,5 litri di vodka tracannandolo tutto d'un fiato e continuare a lavorare? A questo punto il gigantesco operaio metallurgico fa una faccia perplessa e domanda al funzionario: ma senti un po', compagno, si può sapere quanto diavolo devo lavorare? Ora, esistono due proverbi dell'alcolista sovietico meravigliosi. Il primo è poeticissimo, in russo suona così: «Нет некрасивых женщин, есть только маловодка». Non ci sono al mondo donne brutte, casomai c'è solo poca vodka. E il secondo motto dell'alcolista è questo: bere birra analcolica è il primo tragico, devastante passo verso il sesso con una bambola gonfiabile. Ora, io, intendetemi, ho la piena consapevolezza che l'alcolismo sia una grande piaga sociale, soprattutto in quei paesi. Lungi da me fare qualsiasi elogio. Io non bevo, bevo rarissime volte. Qualche volta, quando vengono i miei amici dell'ex Unione Sovietica, è dovere, compriamo un certo numero di bottiglie di vodka e finché non si va sotto il tavolo si continua, ma si fa ogni tanto. Però bisogna riconoscere al grande bevitore sovietico un che di mistico, un che di titanico, un che di zen, se posso dirlo. Ed ecco questo grande bevitore che entra in un kabak, una taverna, e domanda all'oste: dammi 1,5 litri. Boom, la bottiglia, e poi di fianco le due ciotoline, aringhe e cetrioli. E lui si beve così la vodka, si piega il gomito per non avere la tentazione di riabbassarlo, si soffia fuori il fiato e poi si tracanna. La bom! 1,5 litri. Aringa, cetriolo, la vodka canta. E lui è come se avesse bevuto il latticello del bebè. Niente. E adesso dammi 750, la bottiglia. Boom, di nuovo. Aringa, cetriolo. Come se avesse bevuto la camomillina. Pulito. E adesso dammi il 350, la bottiglietta. Di nuovo. Aringa, cetriolo. Perfetto, perfetto, acqua fresca. E adesso dammi il bicchiere da 200. Due sorsi, glom, glom, boom. Coca-Cola per lui. E adesso dammi il bicchierino da 50. Magnifico, magnifico. Potrebbe andare a fare qualsiasi cosa. Per lo sfizio, dammi il bicchierino da 25, Ryumka, è quello che si dà agli stranieri, alle signorine. Lo guarda come un gioiellino, come appoggia quel bicchierino, comincia a barcollare ubriaco fradicio. E dice all'oste: compagno, che cosa mi succede? Io non capisco più niente. Aiutami tu. Fammi capire. Io bevo sempre di meno, sono sempre più ubriaco. Thank you. качается, бросая клятки в ночную тьму. А я нечастная торговка частная, одна на улице всю ночь стою. Купите булочки, горячие булочки, гоните роблочки, да поскорей. И в ночь ненастную меня несчастную торговку частную ты пожалей. Мой пьяница за рюмкой тянется, и мать уборщица, какой позор! Сестра гулящая, бля настоящая, братышка маленький, карманный вор. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички, да поскорей. И в ночь ненастную меня несчастную торговку счастную ты пожалей. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички, да поскорей. И в ночь ненастную меня несчастную торговку счастную ты пожалей. Дорогая луна, вышла в окна скучного вагона. Далекий благовест за утреннего звона пел в воздухе, как нежная струна. Раскинув розовый вуал, красавица царя ленива просыпалась. И ласточка, стремясь куда-то вдоль, прозрачным воздухе купалась. Я ехала домой, я думала о вас, тревожно мысль моя и путалась, и рвалась. Дремота сладкая моих коснулась глаз. О, если никогда я вновь не просыпалась. Questa è un'antica romanza russa che forse una donna che partiva per il gulag cantava al suo uomo che lasciava a casa. O forse il contrario, era lui che partiva per il gulag e lei gli cantava questo addio. Ebbene, intorno al 1936 Stalin precipitò le popolazioni sovietiche, il paese, in un abisso di inferno. Cominciò la stagione della repressione preventiva, la più grande, la più terribile repressione preventiva mai vista in tempi di pace. Approfittando dell'assassinio di Kirov, numero 2 del partito, segretario del partito di Leningrado, che Stalin stesso aveva ordinato e orchestrato, scatenò una campagna di una violenza senza limiti contro nemici immaginari, accusando chiunque. Le deportazioni nei gulag furono a centinaia di migliaia, a milioni. C'era il sistema ufficiale della delazione. Un delatore doveva fare 5 nomi. Se non ne trovava 5 ma 4, il quinto era il suo, partiva lui per il gulag. Ci sono due storielle che danno un po' l'idea del clima, paradossalmente, di quei tempi. In un gulag ci sono due ex ufficiali dell'esercito zarista, due aristocratici, e loro vedono proprio in quel periodo, dopo l'assassinio di Kirov, questi gulag diventare immensi lager, con folle di dannati che arrivano. E uno dei due dice all'altro: «Ah, Anton Pavlovich, che nostalgia! Ma vi rendete conto, se fosse qui con noi il nostro beneamato zar Nicola II Romanov, sarebbe felice, vedrebbe realizzato il suo sogno degli immensi lager pieni, colmi di comunisti e di ebrei». Perché questo fece Stalin. Ora, l'altra storiella è quella del Rabinovich che si sveglia in una comunalca. La comunalca era un'istituzione tipicamente sovietica di quei tempi. Era un appartamento collettivo, ogni famiglia occupava una stanza. C'era la cucina e il bagno comuni. E allora Rabinovich, nell'inverno moscovita, con lo spazzolino, il bicchiere in pigiama, si sveglia e si mette in fila per andare in bagno, è l'undicesimo della fila. Quando tocca a lui, contrariamente a ciò che ci si aspetterebbe, entra e va diritto verso lo specchio. o meglio quello che di specchio è rimasto, una roba tutta lisa, graffiata, sbrecciata, ossidata. Lui cerca quel pezzetto di specchio integro e cerca dentro quel pezzettino la propria immagine, la trova, la fissa dritto negli occhi e le dice: senti, è inutile che ci prendiamo in giro qui, uno di noi due è un delatore. Un dato sconvolgente di quegli anni, che dall'inizio delle purghe nel 37, le grandissime purghe, a diciamo al 38, furono fucilati nella Lubianca, il carcere del KGB che potete ancora vedere a Mosca, 700.000 persone fucilate in un carcere. I dati sono negli archivi del KGB questi. I malcapitati venivano fatti denudare, veniva detto loro di andare contro una porta di legno e poi c'erano questi sbirri che sparavano loro nella testa, nella nuca. Poi una carrucola caricava i cadaveri su dei camion e sparivano. Non si sapeva la data dell'esecuzione, se fossero stati giustiziati, niente. Nessuna fascia della società sovietica fu risparmiata. L'esercito, l'armata rossa, 45% degli ufficiali superiori furono fucilati con accuse pazzesche: trotskismo, talto, tradimento, servi al soldo dei nazisti, perfino il grande eroe Tukhachevsky. Il grande inquisitore Wyszynski era arrivato a dire questa cosa: quando parla l'istinto di classe non c'è bisogno di prove. Naturalmente anche la cultura fu falcidiata. Stalin aveva una certa soggezione dei grandi scrittori, ma questo non gli impedì di far fuori alcuni geni dell'arte sovietica e di tutto il mondo. Entrarono nel tritacarne, fra gli altri, il fondatore del teatro moderno del Novecento, di cui siamo tutti piccoli epigoni. Al presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, Vyacheslav Mikhailovich Molotov, il prigioniero Vsevolod Emilievich Meyerhold Reich. Ecco la mia confessione, breve come si conviene un istante prima di morire. Non sono una spia. Il governo ha ritenuto che per le mie colpe, di cui si è parlato dalla tribuna della prima sessione del Soviet Supremo, non fosse sufficiente il castigo riservatomi, la chiusura del teatro e lo scioglimento del mio collettivo, e che dovessi ricevere un'altra punizione ancora, quella che ora mi infliggono gli organi dell'NKVD. Si vede che così deve essere, ripetevo a me stesso, e il mio io si è scisso in due persone. La prima si mise a cercare i delitti della seconda e, non trovandoli, prese ad inventarli. Il giudice istruttore si rivelò un eccellente esperto in materia e ci mettemmo ad inventare gomito a gomito in stretta collaborazione. Continuava a ripetere minaccioso: se non scriverai ti picchieremo di nuovo. Lasceremo intatta la testa e la mano destra e del resto faremo un pezzo di corpo informe, squarciato e sanguinolento. Mi picchiavano, un vecchio malato di 65 anni, mi mettevano per terra a faccia in giù e con una sferza di gomma attorcigliata mi picchiavano sulle piante dei piedi e sulla schiena. Quando ero seduto mi picchiavano sulle gambe, dall'alto e con molta forza dalle ginocchia in su. Nei giorni seguenti, quando su quelle parti si era formata un'abbondante emorragia interna, mi picchiarono di nuovo sull'echinosi rosso livido giallo e il dolore era tale come se sulle parti malate e sensibili mi versassero dell'acqua bollente. Piangevo e urlavo di dolore. Mi picchiavano sulla faccia con molto slancio. Ritiro le deposizioni estortemi in questo modo e supplico, voi capo del governo, salvatemi, restituitemi la libertà. Io amo la mia patria e sono pronto a darle tutte le forze degli ultimi anni della mia vita. Vsevolod Emilievich Meyerhold Reich. pensiero che le deposizioni da me rese non solo non possano contribuire a stabilire la verità, ma possano fuorviare le indagini, mi tormenta senza un attimo di requie. Non sono colpevole, non sono una spia, non ho mai commesso un reato contro l'Unione Sovietica. Ho accusato di tendenze ad azioni antisovietiche gli scrittori Ehrenburg, Konovalov, Fejerovich, Tumerman e un gruppo di giornalisti, Krieger, Bermont, Tess. È una menzogna. È un'accusa priva di ogni fondamento. Ho conosciuto queste persone e posso dire che sono cittadini sovietici onesti e fedeli. La mia denuncia fu il risultato del vile comportamento da me tenuto nel corso dell'istruttoria. Lo ripeto, non sono colpevole. Mi sono dichiarato colpevole. Ho accusato me stesso ed altre persone solo perché costretto con la forza. Yitzhak Emanuilovich Babiel. Солнце, нежно с морем прощал, в этот час ты знала, что нет любви. Мне немного взгрустилось, без тоски без печали, в этот час ты печали, слава твои. Остаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час знать, что нет любви. Час узнала, что нет любви.